Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Avevo parlato con Gatsby una mezza dozzina di volte nel corso di quel mese, scoprendo con mio disappunto che aveva poco da dire. Pertanto la mia prima impressione che fosse una persona di una qualche indefinita importanza era andata sbiadendo per gradi e lui era diventato null'altro che il proprietario di una raffinata sala da ballo di campagna accanto a casa mia. E poi ci fu quella sconcertante escursione. Non avevamo ancora raggiunto il villaggio di West Egg quando Gatsby cominciò a lasciare le sue frasi forbite a metà, dandosi imbarazzate pacche sul ginocchio dell'abito color caramello. «Dimmi, vecchia Lenza», esclamò di punto in bianco, «che opinione ti sei fatto di me?» Un poco esterrefatto, ricorsi alla generica evasività che la domanda meritava. «Beh, ti racconterò qualcosa della mia vita. Non voglio che ti faccia un'idea sbagliata di me per via delle tante storie che avrei sentito». Dunque era a conoscenza delle stravaganti accuse che rendevano più piccanti le conversazioni alle sue feste. «Ti dirò la sacrosanta verità». D'improvviso sollevò la mano destra per chiamare Dio a testimone. «Sono il rampollo di una ricca famiglia del Midwest, tutta passata a miglior vita ormai. Sono cresciuto in America, ma ho studiato a Oxford, perché è laggiù che hanno studiato per anni e anni tutti i miei antenati. È una tradizione di famiglia». Mi guardò di traverso e io compresi per quale ragione Jordan Baker fosse convinta che lui mentisse. Pronunciò di fretta le parole studiato a Oxford, quasi se le mangiò. Gli morirono in gola, quasi gli dessero fastidio. E con questa sua incertezza l'intera affermazione se ne andò in frantumi. E mi domandai se dopo tutto non c'era qualcosa di un po' sinistro in lui. «Che parte del Midwest?» domandai con oncuranza. «San Francisco». «Ho capito. I miei sono tutti morti e io mi sono ritrovato in mano una grossa quantità di denaro». La sua voce era cupa, come se il ricordo di quella inattesa estinzione di un clan ancora lo tormentasse. Per un attimo ebbi il sospetto che mi stesse prendendo in giro, ma bastò una rapida occhiata per convincermi del contrario. Dopodiché ho vissuto alla maniera di un rajah in tutte le capitali d'Europa. Parigi, Venezia, Roma, ho collezionato gioielli, rubini principalmente, ho partecipato a qualche battuta di caccia grossa, ho dipinto un po', per mio esclusivo diletto, e ho cercato di dimenticare qualcosa di molto triste che mi era successo tempo addietro. Con un certo sforzo riuscii a soffocare una risata incredula. Le espressioni stesse che usava erano così fruste che non evocavano immagine alcuna, se non quella di un personaggio con turbante che grondava segatura da tutti i pori mentre rincorreva una tigre per il Bois de Bologna. Poi venne la guerra, vecchia Lenza. Fu un grande sollievo e mi adoperai duramente per morire, ma la mia vita sembrava protetta da un incantesimo. Allo scoppio del conflitto accettai la nomina di tenente. Nella foresta delle Argonne condussi tanto avanti due distaccamenti mitraglieri che ci trovammo scoperti su entrambi i lati per quasi un chilometro di terreno sul quale la fanteria non poteva avanzare. Restammo lì 2 giorni e 2 notti, 130 uomini armati con 16 mitragliatrici Lewis, e quando alla fine arrivò la fanteria, trovò le insegne di 3 divisioni tedesche tra le pile di cadaveri. Fui promosso maggiore e ciascuno dei governi alleati mi diede una decorazione, perfino il Montenegro. Il piccolo Montenegro, sperduto sulla costa adriatica. Il piccolo Montenegro. Annuì con un sorriso mentre scandiva queste parole. Il sorriso comprendeva la travagliata storia del Montenegro e simpatizzava con le coraggiose lotte del popolo montenegrino. Era un sorriso pienamente consapevole della lunga catena di eventi nazionali che aveva richiesto un tale tributo al piccolo ma ardente cuore del Montenegro. La mia incredulità era adesso sommersa dal fascino. Era come scorrere in fretta una dozzina di rotocalchi. Infilò una mano in tasca e un pezzo di metallo appeso a un nastro cadde nel mio palmo. «Questa è la decorazione del Montenegro». Con mio stupore l'oggetto aveva tutta l'aria di essere autentico. «Orderi de Danilo», attestava l'iscrizione circolare. «Montenegro, Nicholas Rex». «Voltala». «Al maggiore J. Gatsby», lessi, «per lo straordinario ardimento». Ecco un'altra cosa che porto sempre con me, un ricordo dei tempi di Oxford. È stata scattata nel Trinity Quad. L'uomo alla mia destra è il conte Doncaster adesso. Era una fotografia di una mezza dozzina di giovanotti in blazer che bighellonavano in un passaggio a volta in fondo al quale si scorgeva una schiera di guglie. C'era Gatsby, dall'aria più giovane, seppure non di molto, e con una mazza di cricket in mano. E dunque era tutto vero. Vidi le pelli di tigre sfolgorare nel suo palazzo sul Canal Grande. Lo vidi aprire uno scrigno di rubini per alleviare con le loro profondità illuminate di cremisi le pene del suo cuore infranto. «Ho una richiesta importante da farti quest'oggi», disse, rimettendo in tasca compiaciuto i propri ricordi. «Pertanto ho ritenuto che dovessi sapere qualcosa sul mio conto. Non volevo ti facessi l'idea che sono una nullità. Vedi, di solito mi ritrovo circondato di estranei perché mi trascinano di qua e di là nel tentativo di dimenticare il triste fatto che mi è accaduto». Esitò. «Ne saprai di più questo pomeriggio». «A pranzo?» «No, no, questo pomeriggio. Sono venuto a sapere che devi vedere la signorina Baker per un tè». «Vuoi dire che sei innamorato della signorina Baker?» «No, vecchia Lenza, non lo sono. Ma la signorina Baker ha gentilmente acconsentito a parlare con te della questione». Non avevo la più pallida idea di quale questione si trattasse, ma ero più contrariato che incuriosito. Non avevo chiesto a Jordan di prendere un tè insieme per discutere del signor J. Gatsby. Ero certo che la richiesta fosse qualcosa di totalmente bizzarro e per un momento mi dispiacque di aver messo piede nel suo giardino sovraffollato. Non disse una parola di più. Si fece sempre più formale col nostro approssimarsi alla città. Passammo Port Roosevelt, dove intravedemmo qualche transatlantico orlato di rosso, e proseguimmo di gran carriera lungo l'acciottolato di una zona degradata, piena di bettole buie e abbandonate, risalenti ai dorati quanto sbiaditi anni del primo Novecento. Qui alla fatale genesi si sentì imbinata il nostro cospetto, e io scorsi la signora Wilson che trafficava con affannata vitalità la pompa della rimessa, mentre vi sfrecciavamo davanti. Coi parafanghi dispiegati come ali spandemmo luce per metà a storia. Solo per metà, giacché nel nostro serpeggiare tra i pilastri della sopraelevata udì il borbottio familiare di una motocicletta e un poliziotto infuriato ci affiancò. «Va bene, vecchia Lenza!» gridò Gatsby. Rallentammo. Prese un cartoncino bianco dal portafoglio e lo sventolò sotto gli occhi dell'uomo. «Tutto a posto», confermò il poliziotto toccando il berretto. «La prossima volta vi riconoscerò, signor Gatsby, scusatemi». «Cos'era?» mi informai. «La foto di Oxford». «Ho fatto un favore al commissario una volta e da allora mi spedisce tutti gli anni un cartoncino d'auguri per Natale». Passammo il grande ponte, con la luce del sole che, filtrando attraverso le travature, si rifletteva in un incessante sfarfallio sulle auto in movimento, e la città che si ergeva di là dal fiume in ammassi bianchi, grandi zollette di zucchero costruite con la magia in odore del denaro. Dal ponte di Queens si ha sempre la sensazione di vedere la città per la prima volta, nella sua prima ed esaltante promessa che in essa siano racchiusi tutto il mistero e tutta la bellezza del mondo. Un morto ci sorpassò in un carro funebre traboccante di fiori, seguito da due carrozze con le tendine abbassate, da altre carrozze con a bordo gli amici. Gli amici ci guardarono con gli occhi tragici e le labbra superiori sottili dell'Europa sudorientale. E io fui contento che la vista della splendida auto di Gatsby fosse entrata a far parte di quel loro triste giorno festivo. Mentre attraversavamo l'isola di Blackwell, fummo sorpassati da una limousine con uno chauffeur bianco alla guida e al cui interno sedevano tre negri alla moda, due damerini e una ragazza. Risi forte quando rotearono verso di noi il tuorlo dei loro bulbi oculari con altezzosa rivalità. «Può accadere di tutto ora che abbiamo superato questo ponte», pensai, «di tutto». Perfino di incontrare un Gatsby e non restarne particolarmente stupiti. Mezzogiorno ruggente. In una cantina ben ventilata sulla 42esima mi vidi con Gatsby per pranzo. Strizzando gli occhi ancora accecati dalla forte luce che c'era in strada, lo distinsi nell'oscurità dell'anticamera, intento a parlare con un altro uomo. «Signor Carraway, le presento il mio amico, signor Wolfsheim». Un ebreo minuto, dal naso schiacciato, sollevò il testone e mi soppesò, esibendo due narici al cui interno cresceva una peluria lussureggiante. Poco dopo, nella penombra, mi avvidi del suo piccolissimo paio d'occhi. «E così gli ho dato solo un'occhiata», disse il signor Wolfsheim, stringendomi solennemente la mano. «E cosa crede che abbia fatto?» «Cosa?» domandai con educazione. Ma in tutta evidenza non era a me che si rivolgeva, perché lasciò andare la mia mano e volse a Gatsby il suo naso espressivo. «Ho allungato il denaro a Catsbog e gli ho detto: "Bene, Catsbog, non dargli un centesimo finché non si decide a chiudere la bocca". La chiusa seduta stante. Gatsby ci prese entrambi sotto braccio e ci condusse nel ristorante, dopodiché Wolfsheim represse quel che stava per dire e si fece assente, scivolando in uno stato sonnambolico. «Highball?» chiese il maître. «È un bel ristorante questo», disse il signor Wolfsheim, dando un'occhiata alle ninfe presbiteriane sul soffitto. «Ma preferisco quello sul lato opposto della strada». «Sì, degli highball», confermò Gatsby, e si rivolse poi al signor Wolfsheim. «Fa troppo caldo lì». «Fa caldo ed è piccolo, sì». disse il signor Wolfsheim, ma è pieno di ricordi. Di che posto stiamo parlando? Domandai. Il vecchio Metropol. Il vecchio Metropol, rimuginò cupamente il signor Wolfsheim. Pieno di facce morte da quel dì. Pieno di amici ormai perduti per sempre. Fintanto che vivrò mi resterà sempre impressa la notte in cui spararono a Rosie Rosenthal. C'erano 6 di noi al tavolo e Rosie aveva mangiato e bevuto un sacco quella sera. Quando ormai è quasi mattina, il cameriere gli si avvicina con un'aria strana e gli dice che qualcuno in strada vuole parlargli. «Va bene», risponde Rosie. Fa per alzarsi e io lo trattengo sulla sedia. «Che vengano qui quei bastardi, se davvero vogliono parlarti, Rosie, ma tu fammi il favore di non muovere un passo fuori da questa stanza». Erano 4 del mattino e se avessimo aperto le tende avremmo visto la luce dell'alba. «C'è andato?» chiesi innocentemente. «Certo che c'è andato». Il naso del signor Wolfsheim mi fulminò indignato. Arrivato alla porta si è girato indietro e ha detto «Badate che il cameriere non mi porti via il caffè». Quindi è uscito in strada e gli hanno sparato 3 volte in pieno stomaco e sono filati via in macchina. 4 di loro finirono sulla sedia elettrica, disse ricordandomi. 5, contando Baker. Le sue narici si voltarono verso di me denotando un interesse. «Mi pare di avere inteso che siete in cerca di un aggancio nel business». La giusta posizione di queste 2 frasi era stupefacente. «Gatsby», rispose per me. «Oh, no, no», esclamò. «Non è lui la persona». «No?» Il signor Wolfsheim sembrava deluso. «È solo un amico, ti ho già detto che di questo avremmo parlato in un'altra occasione». «Chiedo scusa», disse il signor Wolfsheim. «Ho sbagliato persona». Succulento pasticcio di carne e il signor Wolfsheim dimenticò la più sentimentale atmosfera del vecchio Metropol, cominciando a mangiare con feroce delicatezza. I suoi occhi nel frattempo perlustravano con estrema lentezza il locale. Completò il giro voltandosi a esaminare la gente alle sue spalle. Non fosse stato per la mia presenza, immagino avrebbe dato un'occhiata anche sotto al tavolo. «Ascolta, vecchia Lenza», disse Gatsby piegandosi verso di me, «temo di averti fatto un po' arrabbiare questa mattina in macchina». Esibì ancora quel suo sorriso, ma stavolta gli tenni testa. «Non mi piacciono i misteri», risposi, «e non capisco perché non mi dici con franchezza cosa vuoi. Che bisogno c'è della mediazione della signorina Baker?» «No, non c'è nulla di subdolo», mi assicurò. «La signorina Baker è una grande sportiva, lo sai, e non farebbe mai alcunché di minimamente scorretto». D'improvviso controllò e abbandonò di corsa la sala, lasciando me e il signor Wolfsheim al tavolo. «Deve fare una telefonata», disse il signor Wolfsheim, seguendolo con gli occhi. «Simpatico, no? Un gran bell'uomo. E per di più un vero signore». «Sì, ha studiato a Oxford, però. È andato all'Oxford College in Inghilterra. Conoscete l'Oxford College?» «Ne ho sentito parlare. È fra i college più famosi al mondo». «Conoscete Gatsby da molto tempo?» mi informai. «Da diversi anni», rispose in tono compiaciuto. «Ho avuto il piacere di fare la sua conoscenza appena finita la guerra. Mi bastò parlargli un'ora per capire di avere scoperto un uomo di ottime maniere. Allora mi sono detto, questo è il tipo di persona che uno vorrebbe portare a casa e presentare alla madre e alla sorella». Fece una pausa. «Vedo che guardate i miei gemelli». Non gli avevo prestato alcuna attenzione, ma lo feci ora. Erano composti di un avorio dall'aria stranamente familiare. «Molari umani di prima qualità», mi ragguagliò. «Caspita», li guardai da vicino. «Un'idea molto interessante». «Già?» Si infilò le maniche sotto la giacca. «Sì, Gatsby è molto attento con le donne, non oserebbe nemmeno guardare la moglie di un amico». Quando il destinatario di questa fiducia istintiva ritornò al tavolo e si mise a sedere, il signor Wolfsheim bevve d'un fiato il caffè e si alzò in piedi. «Un pranzo davvero squisito», disse, «ma è meglio che scappi prima di abusare dell'ospitalità di voi giovanotti». «Non c'è nessuna fretta, Meyer», disse Gatsby senza entusiasmo. Il signor Wolfsheim sollevò la mano in una sorta di benedizione. «Sei davvero gentile, ma appartengo a un'altra generazione», annunciò con solennità. «Restate pure seduti a discutere delle vostre attività sportive, delle vostre signorine e dei vostri...» supplì a una parola immaginaria con un altro sventolio della mano. Quanto a me, ho 50 anni e non vi imporrò la mia presenza più a lungo. Nello stringerci le mani e allontanarsi, il suo tragico naso fu percorso da un tremito. Mi domandai se avessi detto qualcosa d'offensivo. «Diventa molto sentimentale a volte», spiegò Gatsby. «Questo è uno dei suoi giorni sentimentali. È un vero personaggio qui a New York, una creatura di Broadway». «Cosa fa? È un attore?» «No, un dentista». «Meyer Wolfsheim?» «No, è uno scommettitore». Gatsby esitò, quindi aggiunse con calma: «È l'uomo che ha aggiustato le World Series nel 1919». «Aggiustato le World Series?» feci eco. L'idea mi lasciò di stucco. Ricordavo come erano andate le World Series del 1919, ovvio, ma posto che mi fossi soffermato a pensarci, avevo dato per scontato che i risultati di quelle partite fossero un mero frutto del caso, la conclusione inevitabile di una catena di coincidenze. Mai mi aveva sfiorato l'ipotesi che qualcuno potesse aggiustare qualcosa, approfittando della fiducia di 50 milioni di persone con la risolutezza di un ladro che svuota una cassaforte. «Come si è ritrovato a fare una cosa simile?» domandai dopo un minuto. «Ne ha intravisto l'opportunità?» «Semplicemente». «Perché non è in galera?» «Non possono mettergli le mani addosso, vecchia Lenza. È uno sveglio». Insistetti per pagare il conto. Mentre il cameriere portava il resto, intravidi Tom Buchanan all'altro capo della sala affollata. «Seguimi un istante», dissi, «devo salutare una persona». Quando ci vide, Tom balzò in piedi e fece qualche passo nella nostra direzione. «Dove sei sparito?» chiese in tono vivace. «Daisy è furiosa perché non ti sei fatto vivo». Il signor Gatsby e il signor Buchanan si scambiarono una veloce stretta di mano e un'espressione tirata e per lui insolita di imbarazzo calò sul volto di Gatsby. «Che fine hai fatto allora?» domandò ancora Tom. «Cosa ti porta a mangiare così lontano da casa?» «Ho pranzato insieme al signor Gatsby». Mi voltai verso il signor Gatsby. «Non ho mangiato più».